Che senso ha studiare giorno e notte per acquistare sapienza? Ma è proprio così importante acquistare conoscenza o istruzione? Sono domande molto importanti e non retoriche, perché io stesso dedico molto tempo allo studio e se acquistare conoscenza recasse danno, sarei il primo a smettere di dedicare del tempo per accrescere la mia. Inoltre, la risposta a queste domande è condizionata dalle nostre inclinazioni o meno allo studio, perciò è saggio sentire il parere dell'uomo più sapiente che sia mai esistito sulla terra dopo Gesù Cristo, e cioè Salomone, il re di Israele. Salomone ha scritto vari libri, tra i quali il Cantico dei Cantici, gran parte del libro dei Proverbi, ma soprattutto è ricordato per un altro libro, l'Ecclesiaste, nel quale ha parlato molto della sapienza. In questo testo, Salomone esprime le sue ricerche del senso della vita e della felicità, ma spesso si riferisce alla sapienza, in modo tale da permetterci di trarne un insegnamento abbastanza preciso. Per prima cosa prendiamo in esame alcuni aspetti negativi della sapienza. Il primo aspetto negativo nel raggiungerla è che occorre fatica e riuscendovi aumenta la sofferenza. Ecclesiaste 1:18. Poiché dove ci è molta sapienza ci è molto affanno e chi aumenta la conoscenza aumenta il dolore. Spesso si dice che gli ignoranti sono beati e molto probabilmente questo detto non è nato dal nulla, ma dalla parola di Dio. In effetti la scrittura riconosce che la sapienza procura affanno e la conoscenza dolore. Questo aspetto della conoscenza mi riporta alla mente un episodio abbastanza drammatico. Il giorno che fu provocata la morte di decine di persone a causa di una bomba posta nella stazione di Bologna, stavo guardando casualmente la televisione. Sentita la notizia, la riportai a mia moglie che era indaffarata nelle faccende della casa. Dopo un po' di tempo mia moglie si agitò e mi disse un poco allarmata che si ricordava in quel momento di due sorelle in fede le quali in quel giorno si erano recate proprio alla stazione di Bologna per prendere il treno. Essendo una donna apprensiva, in poco tempo telefonò ai cari di queste sorelle e tutta agitata ne parlò con altri. La volontà di Dio fu che proprio nell'ora in cui era scoppiata la bomba le due donne si erano allontanate dalla stazione per cui a loro non successe nulla. La morale è questa. Nella mia ignoranza, riguardo ai progetti delle due sorelle in questione, io ero completamente sereno in merito alla loro sorte, pur soffrendo ovviamente a causa dei decessi provocati dalla bomba messa alla stazione di Bologna. Mentre mia moglie, che conosceva i progetti delle due donne, era agitata e allarmò anche altri. Se mia moglie non avesse saputo nulla, non si sarebbe agitata e non avrebbe sofferto. Un altro aspetto della inutilità della sapienza è che essa non può essere trasmessa. Ecclesiaste 2:21. Poiché qui ci è un uomo che ha lavorato con sapienza, con intelligenza e con successo, ma deve lasciare la sua eredità a un altro che non vi ha speso alcuna fatica. Anche questo è vanità e un male grande. Quando un uomo ha lavorato con sapienza e intelligenza, tutto ciò che ha fatto è bello e utile, però ciò che ha prodotto va in eredità ad altri. Basti pensare ai grandi artisti tra i quali Giotto, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Ed ora, dopo secoli, chi ne gode il risultato sono i posteri. A cosa è servita la loro sapienza ai grandi artisti? Sono per poter svolgere le loro opere. Non molto differente sono le cose di oggi. Vi sono uomini che hanno lavorato tutta una vita per costruire una casa o un impero economico, ma gli effetti pratici godono di più i loro figli o nipoti che loro stessi. In questo senso la sapienza è inutile ai fini di poterla trasmettere. Altro aspetto della sapienza è che essa è vana. Ecclesiaste 2:11. Poi mi volsi a considerare tutte le opere che le mie mani avevano fatto e la fatica che avevo impiegato a compierle, ed ecco tutto era vanità e un cercare di afferrare il vento. Non c'era alcun vantaggio sotto il sole. Sapienza e follia sono entrambe vanità. Il termine vanità usato da Salomone, che in questo libro si firma il predicatore o Coelet, secondo altre versioni, non ha propriamente, come sembra, il senso che tutto è vano, inutile. Ma Salomone vuole dire che, essendo tutto mutevole e passeggero, nulla in questa vita può durare o rimanere sempre tale, e la vanità fa parte delle cose che non durano. In effetti, tutto quello che si impara in questa vita non serve a nulla nell'aldilà. Se uno impara 5 lingue, un mestiere, o diventa un grande atleta, non ricaverà nessuna utilità per vivere sia in cielo o in perdizione. In questo senso, la sapienza non ha alcuna utilità o vantaggio rispetto alle altre cose di questa vita, e se per diventare istruiti, o se per acquisire intelligenza occorre fatica, se ciò aumenta il dolore, perché aumentare la sapienza e la nostra istruzione? Non vale allora la pena dedicarsi alla faccenda della vita, senza soffermarsi più di tanto a porsi delle domande, o senza chiedere le ragioni in merito a Dio, alla vita, all'aldilà o a tutto ciò che richiede un impegno intellettuale? Non è così, perché la sapienza ha i suoi grandi vantaggi che, esaminati, la rendono non solo necessaria, ma soprattutto indispensabile. Prendiamo in esame ulteriori considerazioni di Salomone riguardo alla sapienza. 1. La sapienza è un dono di Dio. Ecclesiaste 2:26. Poiché Dio dà all'uomo che gli è gradito sapienza, conoscenza e gioia, ma al peccatore dà il compito di raccogliere e di accumulare, per lasciare poi tutto a colui che è gradito, agli occhi di Dio. Anche se la sapienza procura dolore, essa rimane comunque un dono di Dio. In effetti, non tutte le persone hanno una spiccata inclinazione alla conoscenza. Questo deve portarci a ritenerla un dono piuttosto importante. Anche perché 2. La sapienza ha un vantaggio sull'ignoranza. Ecclesiaste 2:13. Poi mi resi conto che la sapienza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre. Un giorno sul lavoro osservavo alcuni giovani che stavano spostando un peso con tutte le loro forze. Feci loro presente il principio della leva di Archimede. Presero una leva e con il minimo sforzo spostarono il peso. Quando ero giovane l'analfabetismo era molto diffuso e si poteva ingannare il prossimo su ciò che c'era scritto, ma quando uno sa leggere può sempre verificare ciò che è scritto. La sapienza ha sempre il vantaggio sull'ignoranza. 3. La sapienza è vantaggiosa. Ecclesiaste 7:11. La sapienza è buona assieme a un patrimonio ed è vantaggiosa per quelli che vedono il sole. Avere del denaro e non saperlo amministrare è una grande disgrazia. Perciò, mentre si è in questa vita nella quale si è costretti a dover amministrare dei beni, avere della sapienza è un elemento indispensabile e vantaggioso. 4. La sapienza fa vivere. Ecclesiaste 7:12. Poiché la sapienza è un riparo come lo è il denaro, ma l'eccellenza della conoscenza sta in questo. La sapienza fa vivere quelli che la possiedono. Che la sapienza faccia vivere quelli che la possiedono è evidente, perché sono troppi i giovani che, senza intelletto, perdono la vita o se la rovinano per mancanza di saggezza e conoscenza. Disprezzare la sapienza è disprezzare la vita. 5. La sapienza rende forti. Ecclesiaste 7:19. La sapienza rende il saggio più forte di 10 potenti in una città. Con l'industrializzazione, l'uomo ha inventato delle macchine che fanno il lavoro di decine e decine di operai. Dobbiamo riconoscere il valore della conoscenza, e per questo occorre applicarci ad essa. Anche in una conversazione, la sapienza ha un grande valore. Senza saggezza e accortezza, le conversazioni spesso si tramutano in campi di battaglia, ma con un parlare calmo, rispettoso e con la voglia di aiutare il prossimo, il più delle volte si esce fuori dalla conversazione edificati. Non a caso nella parola di Dio sta scritto che la risposta dolce calma la collera, Proverbi 15:1. Quanto bisogno ci è di sapienza nelle nostre conversazioni? 6. La sapienza fa risplendere i volti. Ecclesiaste 8. Uno chi è come il saggio? Chi conosce l'interpretazione delle cose? La sapienza dell'uomo fa risplendere la sua faccia e ne cambia la durezza del volto. Ho conosciuto non poche persone che, dopo aver conosciuto Cristo e la sua parola, hanno avuto un volto trasformato. La vera sapienza insegna ad essere più malleabili, più comprensivi, più amorevoli, e questi atteggiamenti mutano espressioni negative del volto. Se il volto di Mosè è mutato quando era alla presenza dell'Eterno, se il volto del primo martire Stefano è mutato quando vide la gloria di Dio, dobbiamo aspettarci grandi cose quando contempliamo per fede il Dio trino delle Scritture. Conosco un credente che ha posto fede in Dio solo nell'osservare lo sguardo di un religioso. Cosa può fare un sguardo che proviene dall'amore di Cristo? Provare per credere. 7. La sapienza riesce sempre. Ecclesiaste 10:10. Se la scure è smussata e non se ne affila il taglio, bisogna usare maggior forza. Ma la sapienza ha il vantaggio di riuscire sempre. Ancora una volta Salomone si rende conto dell'importanza della sapienza, prendendo in considerazione la scure. La scure è uno strumento per tagliare la legna, ma se non è affilata si fa più fatica. E così è nella vita. Se uno deve fare un viaggio e non si prepara adeguatamente, se nel fare la spesa non tiene presente dove sono gli articoli, è evidente che deve fare molto più fatica che se tutto fosse organizzato. Le faccende della vita si volgeranno ugualmente, ma senza un poco di accortezza. E conoscenza si impiega molto più tempo e fatica. Finché siamo su questa terra, applichiamoci dunque con tutta la nostra volontà alla sapienza. Così sta scritto nel libro dei Proverbi. È gloria di Dio nascondere una cosa, ma è gloria dei re investigarla. Proverbi 25.2. Qualsiasi spiegazione diamo al termine gloria, una cosa è sicura. La grandezza dell'uomo nell'investigare è pari a quella di Dio nel nascondere, sicché si può dire che quando l'uomo investiga è più simile a Dio di quando egli si impegna in tante altre attività. Sta sempre scritto nella parola di Dio: tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza, perché nel luogo della morte non ci è più né lavoro né pensiero né conoscenza né sapienza. Ecclesiaste 9:10. Qualsiasi opinione abbiamo in merito alla sapienza, una cosa è certa: se è già difficile vivere bene la vita con la saggezza che abbiamo, quanto più difficoltosa sarà farlo con ignoranza. Perciò se non ci applichiamo alla sapienza siamo doppiamente poco intelligenti. Novembre 2006.